You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da tutti, da Valentina Furlanetto, benvenuti a Indovina chi viene a cena. Allora, cosa aspettiamo a metterci a tavola? Questa sera abbiamo un ospite, una graditissima ospite, una promettente attrice italiana, Esther Elisha, buonasera. Buonasera. Grazie per aver accettato questo invito, per essere con noi. Ha portato un piatto, no? Sì, ho scelto di portare, insomma, sono una cuoca molto molto basica purtroppo, so fare veramente due o tre cose e questa è una delle mie ricette preferite, si chiama Loco. Praticamente la banana, il platano fritto, e ho scelto di portarlo anche perché, insomma, per confermare che sì, gli africani mangiano le banane, che ci piacciono molto, dato che sono state al centro, no, di varie controversie. Allora, praticamente si prende, insomma, si può scegliere il numero di banane da tagliare, si pelano, si possono tagliare in diagonale oppure in verticale facendo delle rondelle. Sì. Lo metto in un po' d'acqua salata, poi lo asciugo e lo faccio, lo salo, a volte si può mettere anche un po' di limone, insomma, dipende dai giorni, da come mi va, e poi lo faccio friggere nella padella e fino a che diventa dorato da tutti e due i lati, poi lo tolgo e lo asciugo con un po' di Scottex per assorbire l'olio in eccesso. E poi la salsa che propongo da associare è una salsa che si può fare tagliando un po' di aglio e di cipolla e poi si può associare o del peperoncino africano o delle anchille in polvere, oppure si prendono tre piccoli peperoncini e si pesta tutto o in un mortaio oppure in un mixer per fare più velocemente. E poi in seguito si aggiunge a un cucchiaino di salsa di pomodoro concentrata e si aggiunge un po' una mezza tazza d'acqua dove si è fatto bollire, insomma, un mezzo dado. Si mescola il tutto per un 15 minuti e questa poi è la salsa da associare. Molto interessante. Tutto questo si svolge in una cucina a Brescia, giusto? No, vabbè, oggi a Milano. Oggi a Milano. Perché, come sentiamo dall'accento, lei è appunto un'attrice, appunto promettente, italianissima e con radici un po' a Brescia e un po' dove? Bene. Africa, tra il Togo e la Nigeria. Benin, quindi. Sì. Benin alla francese, alcuni di noi dicono Benin, prima abbiamo parlato, sì, di questa, di questa pronuncia, no? E quindi un pezzo d'Africa che è nella sua famiglia da parte di padre. Com'è avvenuto questo incontro fra la mamma e il papà? No, tra l'altro Indovina chi viene a cena è uno dei miei film preferiti perché in qualche modo lo leggo ai miei genitori in un certo senso, essendo mio padre africano e mia madre italiana. Ovviamente quando si sono innamorati e si sono sposati alla fine degli anni 70, no? Era quella storia lì, insomma. Un po' sì, senza che i miei nonni italiani fossero, insomma, impegnati, no, politicamente, come magari poteva essere il personaggio di interpretato di Spencer Tracy. Sì, da Spencer, ecco. Tracy. Esatto. E nulla, loro si sono conosciuti all'università perché mio padre in realtà studiava a Parigi, dove viveva da anni, e mia madre, studiando lingua alla Bocconi, ogni estate passava del tempo, no, alla City Universitaire per fare dei corsi, per perfezionare il francese. E dopo, insomma, si conoscevano già da anni, successivamente già mio padre lavorava, insegnava a Parigi, e insomma si sono innamorati, hanno deciso di sposarsi. Essendo lei figlia unica, hanno deciso di stare a Brescia, no, perché lei non voleva abbandonare i suoi genitori. E quindi questa bella ragazza italiana ha portato a casa, come nel film, questo bel ragazzo di colore. Sì, e le hanno mai raccontato com'è andata quella cena, quell'invito a cena? No, devo dire di no. Penso che domani mattina sarà una delle prime cose che chiederò. So che sicuramente non è stato inizialmente semplice per i miei nonni accettare questa cosa, e poi però quando hanno conosciuto meglio mio padre, poi insomma tutte i timori più che altro che avevano per il loro futuro e poi per quello dei figli, no, che avrebbero avuto, sono venute meno, nel senso che ha vinto, no, poi appunto la fiducia nell'essere umano, che questa cosa è stata trasmessa sia dai miei genitori che dai miei nonni, in un certo senso, qualcosa che ho molto viva in me, il credere, no, nell'umanità che c'è dentro le persone, anche quelle che poi a volte possono essere più chiuse e apparentemente, no, ostili. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom. Insomma, un piatto che ha radici in Africa, mentre lei è italiana, cresciuta in Italia. Da quello che capisco leggendo un po' di interviste, le chiedono spesso invece di fare la straniera che arriva in Italia. Sì, ha fatto parte del mio percorso, questa cosa da un certo punto di vista mi ha dato anche delle belle occasioni come attrice, nel senso che dovendo, no, o imparare una lingua che non conoscevo o, come dire, raccontare un'immaginazione che non è stata quella del mio vissuto, mi ha permesso di fare un vero lavoro d'attrice, cosa che purtroppo non capita spesso, no? In Italia si va molto spesso per la facilità di quello che una prima lettura suggerisce, no, di un attore, quando poi noi studiamo e ci prepariamo proprio per andare il più possibile lontano da noi, per cui insomma da un certo punto di vista non mi posso lamentare. È chiaro che poi dopo un po' questo ha dato, mi sono sentita anche abbastanza frustrata rispetto a quello che era l'immagine, no, che si aveva delle ragazze con il mio aspetto fisico, no? Non, raramente veniva previsto quello che poi era la mia storia, ovvero una storia di normalità, di una ragazza italiana, tra l'altro. Esatto, quando comunque siamo in tanti, ecco. Ha fatto la civica scuola d'arte drammatica Paolo Grassi di Milano, lavorato in teatro, al cinema. Adesso fra pochi giorni sarà appunto nelle sale cinematografiche l'11 di dicembre, giusto? Esatto, sì. Con questo film di Stefano Incerti, Neve, noi abbiamo proprio un audio che ci introduce. So che hai fatto una rapina. E che altro sai? Che non sei un rapinatore. Ma questo amico tuo, qua, che è venuto a fare? Una bella vacanza sulla neve. Tu lo sai che c'è un posto che io devo trovare. Via! Vai, vai! E questo è il trailer di Neve, tra pochi giorni al cinema. La neve, che è questa massa ostile che nasconde le strade, le case, ma è anche la droga, no? Ma sì, anche se non è il centro assolutamente della storia, comunque insomma sicuramente il mio personaggio, quello del insomma anche di Massimiliano Gallo, che è il mio compagno, sono insomma persone che vivono anche, no, ai margini della società, nell'illegalità, e vivono di espedienti legati allo spaccio di cocaina, sì. Non è un noir esattamente. È un noir anche se non muore nessuno, per cui non rientra. È un mix di vari generi in realtà, no? Sì, è un racconto dell'incontro di due solitudini, del personaggio che interpreto io, questa Nora, e quello di Roberto De Francesco, Donato, l'incontro delle loro solitudini, questo viaggio che faranno insieme e che li cambierà loro malgrado, no? Veramente è come se entrambi avessero una lotta per la sopravvivenza spinta da motivazioni diverse e si accompagneranno, no? Faranno un pezzo di strada insieme che li cambierà. Questo paesaggio innevato non è quello delle Dolomiti, ma è l'Abruzzo. Sì, avete girato in Abruzzo? Ho scoperto, abbiamo girato a Ovindoli, Rocca di Mezzo, in quella zona, è un paesaggio meraviglioso, molto molto bello, sì. Trovo che sia interessante questa possibilità che dà il mestiere dell'attore di poter viaggiare lavorando e di trovarsi in luoghi che magari non si sceglierebbero necessariamente. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia, biglia senza pista, un pescatore sprovvisto della sua migliore escadon, Giovanni senza una tresca, io senza te, uno scettro senza re. Non voglio più chiedere scusa se sulla testa porto questa specie di medusa o foresta. Siamo con Esther Elish, attrice italiana che fra pochi giorni sarà al cinema con questo film noir Neve di Stefano Incerti, che vi consiglio di andare a vedere. Esther, questa canzone l'abbiamo messa perché abbiamo scoperto chiacchierando l'altro giorno che tutte e due ci siamo incrociate con questo blog Nappi Italia, che un pochino spinge per le pettinature afro naturali, no? Io quando ho visto le sue foto ho respirato, perché lei, oltre che essere una bellissima ragazza, ha questi bei capelli naturali. Le hanno mai creato problemi sul lavoro? Perché appunto è una battaglia un po' quella di imporre se stessi per come si è. Sì, per me la battaglia è un po' quella al contrario, nel senso che comunque dovendo interpretare non me stessa, tante volte, no, un regista mi vede con i miei capelli che vengono percepiti così esotici, no? Che poi tra l'altro la parola esotico andrebbe anche, no, indagata, perché poi rischia di rendere l'altro bidimensionale, no? Qualcosa di come un piccolo souvenir che si porta da un viaggio. E in realtà io cerco di raccontare donne diverse, per cui interfacciandomi con dei registi che magari non hanno nel loro background una serie di donne africane che hanno conosciuto, zie, mamme, nonne, amiche, fidanzate, amanti, non hanno la consapevolezza che il capello è un fattore identitario, un elemento identitario, e dunque ogni donna, in base a come porta capelli, è una donna diversa, perché avere la libertà di portarli afro ricci non è necessariamente una scelta che tutte possono permettersi o hanno la consapevolezza o la volontà di intraprendere questa scelta. E per quanto mi riguarda non è stata una scelta, perché essendo mia madre bianca non me li sapeva pettinare, sicuro non mi sapeva fare le treccine, e negli anni 80 non c'erano tante parrucchiere afro in Italia, per cui è stata una necessità che poi ho abbracciato consapevolmente. Detto questo, per me poi essere completamente donna africana, in un certo senso abbracciare la mia femminilità, è anche quella di poter utilizzare tutte le possibilità che i miei capelli danno, no? Dunque di giocare con il mio aspetto senza paura, e poi per il lavoro è una necessità quella di farlo, ecco. Sentiamo un audio di un'intervista della scrittrice Kimi Manda Nzoki Adichie. I think for me really it was just a larger question of if Michelle Obama had natural hair, Barack Obama would not have won. Avete sentito in questo dibattito insomma lo stupore che ha provocato questa provocazione di questa scrittrice, che ha detto: se Michelle Obama avesse tenuto i suoi capelli naturali, Barack Obama non avrebbe vinto. Ed è una cosa che ha fatto discutere abbastanza in America, e anch'io mi ero posta questo interrogativo, no, Esther, di quanto il tentativo di ricreare un'immagine bianca abbia influito anche nella nostra percezione di un presidente nero. Ma guardi, le donne afroamericane si lisciano i capelli da una vita, per cui Michelle Obama probabilmente se li lisciava ancora prima che suo marito decidesse, no, di andare alla Casa Bianca, non so come dire. Sono comunque d'accordo con Ancona, dici, nella misura in cui credo anch'io che se Michelle Obama avesse portato i capelli, no, naturali, dato che siamo in una società dove la comunicazione visiva è fondamentale, sarebbe stata percepita come aggressiva, come probabilmente no, come se in quello ci sarebbe stata una rivendicazione, no, di qualcosa che avrebbe spaventato parte dell'elettorato, immagino. Sono uno di quelli che porta i suoi lunghi capelli per scelta e non usa trucchi, e voi levatevi la parrucca. Io vivo sempre insieme ai miei capelli. Sì, anche in Italia siamo un po' indietro, no? In questo dibattito del come ci si pone, c'è sempre questa frase dell'integrarsi, no? Come se uno dovesse assumere i canoni. L'altro giorno con una scrittrice italiana e indiana, Gabriella Curuvilla. Sì. E mi faceva molto ridere perché mi raccontava di un inizio, di un suo libro in cui il suo personaggio diceva: ma che cosa vuol dire integrazione? Non siamo neanche integrati con noi stessi, no? Parlando proprio dell'essere umano. E sono abbastanza d'accordo, penso che ognuno si porta la sua storia in modo diverso, no? Si può essere anche, che ne so, di genitori italiani, ma vivere comunque, no? Quello che è avere un genitore del nord, un genitore del sud Italia, o comunque poi quella che è la difficoltà dell'esistenza per ognuno di noi. Sicuramente l'Italia è un paese che conosce poco l'altro. E anche nel linguaggio, no? Il fatto di chiamare insomma gli stranieri genericamente extracomunitari, in questa parola si nasconde anche la mancanza di curiosità, perché se una persona arriva dal Camerun o se arriva dallo Sri Lanka, sicuramente hanno delle abitudini molto diverse, ma anche se vengono dal Camerun e dal Senegal. Esatto, no? poi l'Africa viene percepita come un unicum quando ci sono culture molto diverse. Diverse. Un continente enorme. Immagino che le siano capitati questi equivoci quando parlava del papà, no? Le avranno fatto domande che invece appartenevano al Kenya invece che alla Nigeria, immagino. Come ma se guardi, fosse un devo tutt'uno. Dire che domande specifiche sul paese di mio padre non me sono, cioè non l'ho quasi mai ricevute, e questo è anche indicativo di quanta poca curiosità poi alla fine. Quindi c'è. L'Africa incuriosisce. Ma non lo so, io devo dire, ecco, non è che non ho dovuto rispondere a tante domande. Ecco, non ho percepito tanta curiosità fino ad oggi, forse anche perché vengo percepita poi di fatto come italiana, e dunque magari non viene neanche spontaneo, no, sapendo che sono nata qui. Lei è stata nel paese di suo padre, in Benin? Sì, sono stata, e spero di poter tornare presto, perché sono stata benissimo con la mia famiglia, siamo veramente stati cullati dolcemente da questa vacanza meravigliosa e dai ritmi e dall'incontro poi con tutta la mia famiglia numerosissima. È stato molto molto bello, spero tra un paio d'anni di tornare. E che percezione ha dell'Italia quando è lì e viceversa? Cosa sappiamo noi di quel paese, secondo lei? Perché spesso quello che noi sappiamo è relegato negli stereotipi, una dimensione. Ma secondo me credo che in generale ci sia poca percezione di, perché in realtà, insomma, i paesi in via di sviluppo sono veramente in via di sviluppo, per cui c'è una forza verso del cambiamento che è fortissima, che qui non l'ho percepita così minimamente in Italia, mai, non ho mai sentito di stare in un paese davvero in movimento come mi è capitato invece stando in Benin. Per cui, e anche quanto poi noi giovani, i miei coetanei, conoscono la politica mondiale rispetto a noi che siamo veramente ripiegati su noi stessi, no? A volte purtroppo la cronaca nera prende molto più spazio di quelle che sono poi, no, le notizie che arrivano dal resto del mondo. Lei diceva che la cucina, i suoi gusti, i profumi che le ricorda di più sono legati alla nonna, se non sbaglio. Sì, mia nonna, la mamma di mia mamma, era di Potenza e dal lunedì al venerdì si occupava di noi, nel senso che mia madre, insomma, insegnando, tornava all'una e mezza, per cui mia nonna si occupava di preparare da mangiare per tutti, e era una cuoca eccellente. Purtroppo io all'epoca ero troppo pigra e per niente curiosa, mi faceva molto piacere mangiare quello che preparava, ma non ho mai avuto la curiosità di stare accanto a lei ai fornelli per imparare. Quindi per di cui, Potenza sono i gusti, sì, legati alla sua infanzia. Sì, i miei parenti comunque comunque poi il mio bisnonno aveva la vigna, per cui arrivo proprio da un, come dire, da un retroterra, cioè ho delle origini contadine, no? Per cui che però purtroppo non ho ereditato, anche se ultimamente devo dire che cerco di comprare da delle cascine qua nei dintorni di Milano, che insomma, cercare di mangiare bene, e anche il pollo, ho comprato un pollo intero l'altro giorno. E questo è tipicamente di Milano. Invece suo padre in casa cucinava? Mio padre cucina molto bene e purtroppo lo fa raramente, però ecco, devo dire che quando cucina lui è sempre un po' festa, sicuramente, sì. Cucina del Benin. Come in molte altre regioni dell'Africa che hanno avuto un trascorso coloniale, il cibo tradizionale del Benin ha avuto un'evoluzione profonda che ha unito gusti occidentali a ricette tipiche locali. Il pesce è presente in tutti i menù, così come i cereali. Il piatto più conosciuto della regione sembra essere il calau, una minestra di carne, verdure e crostacei molto gustosa. Ma troverete anche gli akpan, dei tortini di cereali immersi nelle salse, il platano fritto, aloco, e salse come il moyo, con pomodoro, cipolle e peperoni, che accompagneranno i vostri piatti di pesce. Il tutto servito assieme a salse alle arachidi, purea di fagioli o patate e patè di mais e molta frutta fresca, tra cui banane, ananas, papaie e noci di cocco. Io devo dire che una delle mie cose preferite è la blo, che è fatto con una farina di mais agrodolce, una specie di piccolo polenta che si fa però in, si mettono dentro le foglie di platano, credo proprio. Insomma, attraverso la cucina mi sembra di capire se anche per lei è un insieme di identità e nostalgia, no? Sì. Proprio l'ha detto benissimo. Tornando invece al cinema, quali sono i suoi progetti per il futuro? Insomma, cosa le piacerebbe interpretare? Guardi, mi divertirebbe molto poter partecipare a un film d'azione, a un non so, un Kill Bill. Lì ci vorrebbe. Mi costringa a dover imparare, no, delle cose diverse. E per i budget italiani forse è molto ambizioso. Sì. Ha in mente qualcosa invece all'estero? Guardi, io devo dire che sì, nel senso che parlando diverse lingue in questo momento ho la curiosità e il desiderio di cercare di lavorare anche all'estero, continuando a lavorare qui, però anche semplicemente per ampliare le mie possibilità, dato che comunque noi attori, insomma, abbiamo una discontinuità lavorativa che caratterizza il nostro mestiere, tanto vale darsi più chance. Me lo auguro. Quindi ecco. Spazio anche al cinema internazionale. Lo stato di salute di quello italiano invece, secondo lei, qual è? Non lo so, perché se devo essere onesta non posso dire di... sono più spettatrice del cinema straniero. Quello che noto in generale è che c'è molto più talento di quello che arriva al pubblico, nel senso che purtroppo i film vengono anche accompagnati male, la distribuzione in sala spesso abbandona dei progetti molto belli, no? Per cui magari rimangono una settimana in sala e non c'è occasione di vederli, non si riesce a creare il passaparola intorno a dei progetti interessanti. Penso che manchi un po' di coraggio produttivo e anche di forze produttive per sostenere dei progetti che escono un po' da quello che è il tracciato più facile, e è un vero peccato, perché insomma credo veramente che in Italia il problema non sia il talento ma la mancanza di coraggio. Lei ha fatto teatro, la televisione invece, le hanno mai proposto qualcosa, le interesserebbe? Ma guardi, qualcosina ho partecipato a Boris, anche se per un paio di puntate basta, però essendo veramente amato dal pubblico mi capita che qualcuno mi fermi e mi chieda: ma te sei quella di Boris? Cosa che mi sciocca, perché veramente avevo un ruolo minuscolo in una puntata. Ma l'effetto televisivo, insomma, della popolarità. Esatto, però sì, mi ha proposto una cosa, vediamo cosa si va in porta. Beh, noi le auguriamo il meglio, grazie per essere stata con noi questa grazie sera, a voi. Buona serata a Esther e Liscia. Altrettanto. Aloco. Ingredienti: 4-5 banane platano, sale quanto basta, olio di arachidi. Sbucciare e tagliare a rondelle le banane. Mettetele in un recipiente con un po' di sale. Prendete una padella, versatevi l'olio, scaldatelo e friggete le banane per circa 10 minuti. Fate scolare su carta assorbente. servite con salsa di pomodoro piccante. Grazie anche a Fabio Cantadori in regia, a tutti voi per l'ascolto. La puntata di stasera termina qui, ci risentiamo sabato prossimo. Buona serata. You've got to give a little. That's the glory of love.